Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Ancora oggi sulle prime pagine dei quotidiani, sulle prime notizie nei notiziari, la crisi finanziaria, le borse, Tokyo ha perso il 6,35%, Wall Street ieri sera ha chiuso quasi con una perdita del 9%, la crisi finanziaria sembra non avere fine e i governi stanno cercando di attuare misure, provvedimenti per cercare di riportare fiducia nell'economia e di far sì che siano minime le ripercussioni sull'economia reale di questa crisi finanziaria. Ne parliamo oggi con Alberto Quadriocurzio. Buongiorno, professor Quadriocurzio. Buongiorno. Alberto Quadriocurzio è preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano. Ha scritto oggi un editoriale per il Sole 24 Ore, Bruxelles diligente e senza idee. Parte dal fatto che oggi si riunisce l'Ecofin, il vertice dei ministri finanziari europei, tratterà questo Ecofin delle misure per sostenere la crescita e l'occupazione e in vista del Consiglio europeo, dei capi di Stato e di Governo che si riunirà la settimana prossima, l'11-12 dicembre, per prendere delle decisioni definitive. Tanti provvedimenti sul tappeto, tante misure che stanno per essere varate, però in fondo Quadriocurzio afferma il piano sembra non mancare nulla, tanto da non scontentare nessuno dei 27 paesi. Gli manca però la forza delle grandi decisioni che l'Unione Europea ha saputo prendere in passato e che sarebbero necessarie oggi e che non è supplita dalla precisione comunicativa e poliglotta del Presidente José Manuel Barroso. Quindi un'Unione Europea che fa tante cose ma che non ha grande coraggio. Alberto Quadriocurzio. A mio avviso è proprio così, perché l'Unione Europea, che ha saputo decidere a suo tempo la costruzione del mercato unico, l'allargamento, l'euro, oggi di fronte ad una crisi che certamente ha delle dimensioni epocali, si limita ad organizzare un coordinamento, peraltro formale più che sostanziale, di spesa pubblica dei paesi europei, lasciando poi che ciascuno di questi faccia a modo suo, senza tener conto che, essendo il mercato unificato e la moneta pressoché unificata, sia pure essa riferita ai paesi di Eurolandia, ma ormai de facto estesa a tutti i 27, non basta una forma di coordinamento leggero o di coordinamento morale tra le politiche economiche, ma ci vuole un grosso piano di intervento, altrimenti l'Europa, pur più solida degli Stati Uniti, rischia di entrare in una recessione, poi eventualmente peggiorante in depressione, che potrebbe durare molti anni. Ecco, mentre ricordo gli ascoltatori, l'800 24 00 24, per le vostre chiamate, le vostre domande, vorrei chiedere al professor Quadriocurzio, allora in questa prospettiva non si tratta solo di modificare o di interpretare brevemente i parametri di Maastricht, questi parametri che fissano un tetto all'espansione della spesa pubblica dei singoli paesi, ma sarebbe necessario attuare dei provvedimenti diversi e che diano la possibilità all'Europa di essere un soggetto forse unico e non di doversi fidare dei singoli paesi e delle singole possibilità di manovra. Professor Alberto Quadriocurzio. Sì, io sono convinto che sia così per due ragioni. Innanzitutto perché la dimensione della crisi non è più alla portata di rilancio di un singolo paese, quantunque lo stesso possa essere grande come la Germania, e degli effetti positivi che il rilancio di un paese, peraltro la Germania molto cauta, ha su tutti gli altri paesi. In secondo luogo, perché affidarsi completamente alla BCE in quanto gestore della politica monetaria, ma in assenza della politica economica gestore tutto, è davvero miope. La BCE, tra l'altro, che pure si è bene comportata nelle fasi super acute della crisi, dovrebbe adesso decidersi di abbassare i tassi a quel 2% che fu prevalente nel periodo 2003-2005 in condizioni molto migliori. Invece la BCE fa degli annunci e sta ferma. Ho l'impressione che tutti stiano sottovalutando a livello comunitario la gravità della crisi in cui ci troviamo. Né l'Italia per conto suo può fare granché, anche perché è molto vulnerabile dal punto di vista del debito pubblico. Ecco, in questa prospettiva una sua proposta anche nei mesi scorsi era stata quella di lanciare dei bond europei, cioè dei titoli di debito pubblico, per finanziare gli investimenti con una garanzia appunto a livello europeo, ma questo forse richiederebbe una capacità politica anche da parte dell'Unione Europea, una capacità politica che forse in questa fase è prematura, ma chi potrebbe prendere l'iniziativa per rompere un po' gli schemi e per gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo e per fare dell'Europa una entità capace appunto di gestire anche proprie risorse finanziarie, professor Quadrocurzio? Certamente la leadership conta moltissimo. L'Europa ha avuto dei momenti straordinari di creatività e di innovatività con personalità tipo Jacques Delors, tipo Edmund Kohl, tipo François Mitterrand. Adesso certamente non si vedono dei leader di tal fatta nel contesto europeo, quindi bisognerebbe avere un concorso di molte personalità che tuttavia debbono essere prioritariamente convinte sulle esigenze che l'Europa ha oggi. Invece credo che questo non stia accadendo. Probabilmente qualcuno, e peraltro ci sono state delle proposte di persone specifiche aventi responsabilità istituzionali, nel senso per esempio del bond europeo, che non dimentichiamolo fu pensato da Jacques Delors nel 1993 e poi non fu mai adottato dall'Unione Europea. Quindi credo che senza un concorso di personalità non si riuscirà a fare granché, e poi la crisi a mio avviso potrebbe peggiorare. Certo, possiamo anche affidarci alla regola comune del passato che quando si tocca il fondo poi la palla rimbalza. Bene, tuttavia potrebbe anche rimbalzare fuori dallo steccato. Questa sì, è una previsione certamente difficile da fare, le prospettive possono essere anche abbastanza pesanti, adesso mano a mano che anche i centri studi rivedono le previsioni, spostano più in là, al 2009, addirittura al 2010, la possibilità di una ripresa, e quello che accade sui mercati finanziari sembra non dare grandi prospettive appunto almeno immediate, non si è ancora toccato il fondo, anche se il fondo comunque si dovrà toccare, e quello che insegna la storia e che prima o poi comunque la risalita ci deve essere. Ascolterei un ascoltatore, Roberto da Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno, senta, io volevo fare una domanda al professore Quadrocurzio, io volevo fare questa riflessione, mi si è contato che nelle precedenti crisi è stata più che altro la componente dell'export che ha trainato la domanda complessiva, mi si è contato che oramai a livello mondiale c'è tutto questo rallentamento e quindi la nostra quota export tenderà sostanzialmente a non essere, diciamo, così forte da farci risollevare dalle precedenti crisi. Io direi, da mie vecchie reminiscenze di economia all'università, eccetera, la quota di domanda aggregata costituita dai consumi, investimenti, la quota pubblica, professore, che cosa, diciamo, quale ricetta potrebbe consigliare al nostro governo per alimentare la famosa I degli investimenti degli imprenditori, visto e considerato che le aspettative purtroppo sono un po' intrappolate in valori negativi, e quale potrebbe essere effettivamente la G, la componente di spesa pubblica di qualità? Io suggerirei, sentendo le precedenti trasmissioni, si parlava di fare una sorta di clearing house per la certificazione dei crediti che molte imprese hanno nei confronti della pubblica amministrazione, e in più proporrei una vera e propria finanza di distretto per favorire quegli investimenti che possono costituire da moltiplicatore per l'economia. Grazie mille, sembra una domanda molto chiara, cosa fare per restituire fiducia in fondo alle imprese per riavviare il circuito positivo tra investimenti, produzione e consumi. Professor Quadrocurzio. Ma a me pare che le proposte dell'ascoltatore siano tutto ragionevoli e credo che il governo qualcosa stia facendo in questa direzione. Tuttavia due elementi ulteriori vanno considerati. Da un lato è indispensabile che il credito rifluisca adeguatamente alle imprese e alle famiglie, ed è anche questa una delle direzioni su cui il governo sta lavorando e probabilmente arriverà presto un nuovo decreto integrativo dei due precedenti. Le banche stanno abbastanza bene, ma se poi si chiudono in se stesse e non erogano il credito, verrà il giorno in cui staranno meno bene, perché vivono sul credito le banche. In secondo luogo, il nostro debito pubblico impone degli interventi molto selettivi Tra questi, certamente i due suggeriti dall'ascoltatore sono positivi. Ho trovato anche positiva nelle scelte del governo la decisione di rendere l'IVA esecutiva per cassa e non più per competenza. Questo dà un certo respiro alle imprese e credo vada nella direzione detta. Quanto alla domanda di consumo, che io ritengo sia molto importante, ahimè, se non si ricrea la fiducia non riparte questa domanda, tant'è che il tasso di risparmio delle famiglie italiane sta aumentando. Nel lungo periodo è buona cosa, perché questa tipologia di parsimonia prudenziale ha sempre dato forza al nostro paese, ma nel breve periodo, oggi che la domanda dovrebbe ripartire, non è certamente un contributo. In ogni caso il contributo viene solo se le famiglie riacquistano fiducia. E la fiducia è un elemento importante, direi fondamentale, proprio per riavviare l'economia e per non avere appunto la preferenza per il risparmio, che è certamente una cosa positiva, come ci hanno insegnato da tempo, ma indubbiamente anche avviare i consumi, avviare la produzione, permettere alle aziende di crescere in questa fase è un dato fondamentale. Stiamo parlando con il professor Alberto Quadrio Curzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano, della politica economica che si ha da fare in questo periodo, che possono fare i governi, che può fare, che potrebbe fare l'Unione Europea per affrontare la crisi e per ridare fiducia ai cittadini e alle imprese. Sentirei Alain da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Avete parlato di ridare la fiducia. Io è da ieri pomeriggio che ho mal di stomaco, se potete chiarirmi un attimo la notizia. E ho appena finito di pagarla il mutuo della casa, mi sono reindebitato per sistemarla, visto che è una casa vecchia, per usufruire della legge del 55%. Ho tirato fuori parecchi soldi, circa 15.000 euro cash, per cambiare tutti i serramenti. Adesso, a quanto pare, hanno cambiato la legge in maniera retroattiva. Allora, mi fate capire come si dà la fiducia in questa situazione? Visto che oggi i giornali, voi compresi, perdonatemi, parlate solamente di Sky, e quando uno decide di mettere su pannelli solari o cambiare solamente di una casa vecchia o rimettersi a posto, non si dice niente perché non fa notizia. Potete aiutarmi, per favore? Grazie e buona giornata. Guardi, da parte della radio abbiamo parlato anche di questo provvedimento, abbiamo parlato ieri a Focus Economia, ne riparleremo ancora oggi. Indubbiamente lei ha ragione, la detrazione del 55%, come riportato anche oggi su Sole 24 Ore, cambia, va prenotata in anticipo con un'istanza dell'Agenzia delle Entrate, che avrà 30 giorni di tempo per un silenzio rigetto, per esaminare le richieste, dato che i fondi disponibili sono inferiori alle richieste. Allora c'è stato questo provvedimento del governo. Da parte mia, se posso commentare, indubbiamente penso che l'ascoltatore abbia ragione, un provvedimento di questo tipo non va nella direzione di aiutare, appunto incentivare l'economia, incentivare alcuni investimenti che peraltro sono utili, come quelli per il risparmio energetico, per il risanamento ambientale, e quindi su questa fase, in questo provvedimento hanno prevalso più gli aspetti di restrizione alla spesa pubblica che non gli aspetti di incentivo alla crescita. Ma vorrei sentire anche il professor Alberto Quadrio Curzio. Io concordo totalmente con quanto ha detto lei, perché se la norma è come a prima vista si presenta, è una norma non condivisibile. Risparmio energetico è importantissimo, l'effetto moltiplicativo che veniva dall'incentivo attraverso la sostituzione di strutture termoisolanti era anche importante dal punto di vista della moltiplicazione sulle imprese produttrici. Mi auguro che l'approfondimento non porti a queste conclusioni, ma siccome credo porti a queste conclusioni, io mi auguro che il governo reintervenga modificando il provvedimento medesimo. Anche perché, se posso aggiungere una cosa, è proprio la filosofia del pensare che un limite di spesa per questi incentivi possa rappresentare appunto un confine, un baluardo, ma questi incentivi sono destinati a avviare e a far crescere appunto gli investimenti in questo settore, e quindi sono incentivi che aiutano a moltiplicare l'attività e a far crescere l'attività, e quindi porre dei limiti di spesa è quasi come porre un limite alla crescita dell'economia. Giuseppe da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Si dica. Mi sente? Sì, sì, mi dica. Ah, ecco, non sono uno statista, volevo solo fare un'osservazione, no? Adesso c'è di moda il rilancio del consumo. Sappiamo, credo che sia una cosa corretta, che l'Italia è divisa grosso modo in quattro classi: la classe dei poveri, nell'ambito della classe dei medi ci sono due categorie, chi ha un reddito diciamo quasi adeguato, chi ce l'ha adeguato, e poi c'è la classe dei ricchi e super ricchi. Secondo me, se effettivamente si vuole rilanciare il consumo, almeno in Italia, quindi agevolare gli investimenti di cui voi adesso avete pure accennato, dovrebbe essere rivista la curva delle imposte, delle imposte dirette. Ecco, la ringrazio, la sua domanda è molto chiara. Rivedere la curva probabilmente per togliere un po' di più ai ricchi e dare un po' di più a chi guadagna di meno. È quello che in parte, senza rivedere la curva, sta facendo il governo con questo bonus, che è bonus, e con questi fondi che vengono dati alle classi meno abbienti. Si tratta di redistribuzione del reddito. Ecco, sul fronte della curva delle aliquote bisogna stare attenti, perché tasse troppo alte sembrano quasi un incentivo all'evasione fiscale, quindi le tasse devono essere giuste. Non essere né troppo alte né troppo basse. La progressività delle imposte è nella Costituzione italiana ed è giusto che ci sia, ma deve essere una progressività equilibrata che non punisca il merito, perché va tenuto conto che il merito e la capacità di lavoro, la capacità di guadagno è uno dei motori dell'economia, e questo va salvaguardato. Guido da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Io sono un po' perplesso a sentire parlare di che è necessario che l'economia dipenda dalla fiducia del cittadino medio che deve consumare. Onestamente mi sembra di una pochezza intellettuale, che io ho studiato economia e commercio, sono dirigente in un'azienda da diversi anni, una multinazionale, e cerco di seguire il dibattito politico-economico in modo obiettivo, anche se si fa fatica vista la pochezza dei protagonisti e molte volte purtroppo anche la pochezza di chi dovrebbe, la famosa stampa, il quarto potere, no? Che dovrebbe garantire un pochino il cittadino medio e pungolare i politici che dovrebbero rappresentarci e risolvere i nostri problemi. E sentire dire che l'economia dipende da quanto io consumo, francamente, dopo la battuta su Obama che è un po' scura, anzi questo è peggio secondo me. È peggio dire che l'economia dipende da quello che consumo io, dopo che per anni ci hanno fatto, io per fortuna non mi sono fatto fregare, ma ci hanno fatto mettere tutti i risparmi prima in borsa, poi hanno cercato di prendere il TFR dei dipendenti per usarlo ancora loro, crollate le borse. Ecco, io la ringrazio. Io rimanga poco da consumare, comprarmi un maglione che non mi serve. Io la ringrazio di questo intervento. La pochezza, lei ha parlato molto di pochezza, e anche quella del tempo, abbiamo poco tempo a disposizione, le sue idee sono abbastanza chiare, l'economia peraltro lei ha studiato, si basa proprio sul fatto dei consumi che danno vita alla produzione, che dà vita alle imprese, ai posti di lavoro. In questo circolo poi potrà essere banale, però c'è anche la crescita e c'è anche la ricchezza. Professor Quadriocurzio, per concludere. Ma credo che, come dire, gli economisti fanno quello che da tanto tempo fanno, e cioè applicano dei principi che hanno dato nel medio-lungo periodo dei risultati buoni, perché la crescita c'è stata anche nel nostro paese. Certamente vi sono dei momenti di crisi, di caduta nel contesto specifico di oggi, non certo causati dall'Italia o dai suoi governi, quale che fosse stato o che sia il loro colore. Io credo che il nostro paese sia mediamente più forte di molti altri paesi, a partire dall'Inghilterra, che c'è stata spesso presentata come un modello di assoluta prevalenza. Credo che il nostro paese ne possa uscire abbastanza bene, anche se, non dobbiamo dimenticarlo, noi abbiamo tre gravissimi problemi strutturali che vanno affrontati e risolti, non certamente dall'oggi al domani. Il divario nord-sud, abbiamo nel sud un giacimento di ricchezza formidabile, tra l'altro del turismo, che non viene valorizzato, il deficit energetico, che per fortuna adesso morde meno con la caduta del prezzo del petrolio, che io vorrei vedere più rapidamente tradotta nei prezzi al consumo, E infine il problema del debito pubblico. Se noi riusciamo a reggere questa crisi, e spero che riusciremo anche per la forza della nostra manifattura, potremmo uscire in situazioni migliori. Poi i problemi strutturali andranno risolti. E possiamo risolverli perché le risorse ci sono, soprattutto le risorse umane, la capacità delle persone. L'Italia in fondo resta un grande paese. Io ringrazio Alberto Quadrocurzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano, di essere stato con noi. Ringrazio quanti ci hanno seguito. Filippo Reggi in regia. L'appuntamento è per domani.